Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Era il più piccolo dei figli maschi di Don Vito e anche il più scapestrato per sua stessa missione. Per questo fu quello predestinato a diventare l'ombra del padre e ad esserne anche a lungo schiacciato. Fu quello che più di tutti ne conobbe i segreti e ne penetrò i misteri per iniziare poi a svelarli aprendo il grande archivio di appunti e pizzini su 40 anni di abbracci mortali tra mafia, politica, affari e servizi segreti. Quel progetto di un libro iniziato col padre, ora Massimo Ciancimino, il figlio del sindaco mafioso di Palermo, l'ha portato a termine pubblicando con Francesco Lalicata per Feltrinelli Don Vito, l'uomo dei Corleonesi e del sacco di Palermo, l'uomo dei misteri, a cominciare da quello del signor Franco, quel volto dei servizi segreti coinvolto nelle nuove indagini sull'attentato della Daura e poi delle stragi, un uomo che Massimo Ciancimino ha visto parecchie volte. Chi era questo signor Franco? Ecco, e lei come l'ha conosciuto la prima volta? Chi è il signor Franco? Credo che ancora oggi stiamo cercando insieme alle procure di Palermo e di Caltanissetta a mettere in ordine tanti pezzettini di un puzzle. C'è questo signor Carlo che ho visto diverse volte, ma che di fatto non mi è stato mai mostrato in quelli che sono gli elenchi messi a disposizione dei servizi, per cui ancora non si è potuti giungere, come per altri, all'identificazione certa di questo personaggio. Negli anni 70, come racconto nelle pagine del libro, nel momento in cui si era dovuto creare questo grosso collante tra istituzioni e Cosa Nostra, è proprio allora che mio padre viene chiamato al Ministero degli Interni, dove c'era il ministro Ruffini e il ministro Restivo, e in quel periodo che si cerca a mio padre di far stabilire questo contatto e gli si accredita questo signor Franco come uomo vicino alle istituzioni da tenere sempre costantemente informato di quale era l'evolversi della situazione, diciamo, anche di Cosa Nostra. È lì che nasce questo rapporto, che viene poi consolidato in quello che sono gli eventi importanti. Quindi il signor Franco è stato suggerito, avvicinato, indicato a suo padre dal Ministero dell'Interno. Capisce bene come in quel periodo i suggerimenti di un ministro come l'ex ministro della difesa, il ministro degli interni, significava più che altro un'imposizione, come a voler dire questa classe politica, che sicuramente relazionava con altri personaggi e mafiosi di allora, avevano la necessità di stabilire un contatto prioritario. La stessa frase che mi venne chiesta da De Donno in aereo quando nacque l'esigenza di poter dialogare direttamente dopo la strage di Falcone con mio padre, direttamente con i due Corleonesi, Rina e Provenzano. Perché lei dice signor Franco o signor Carlo? Da dove nasce questa incertezza anche sul nome? Credo che ho sempre detto che io l'avevo memorizzato come telefono e ho recentemente anche dato le indicazioni di questi riferimenti telefonici alle autorità giudiziarie come Franco. Avevo notato che spesso mio padre lo aveva chiamato col nome Carlo, per questo ho cercato di rappresentare alla magistratura quella che era la mia conoscenza come signor Franco. Non sono in grado di stabilire se si chiamasse realmente né Franco né Carlo. Si è parlato molto di una foto. Lei lo saprebbe riconoscere? Ha una sua foto? Ha un suo... Guarda, a questa domanda non posso risponderla perché devo per forza attenermi al segreto istruttorio. L'elemento identificare è un elemento complesso. Alcuni personaggi che girano intorno credo che siano già riusciti i magistrati, anche tramite il mio contributo, confermato da altri collaboratori di giustizia, sono riusciti a risalire l'identità, però ovviamente lasciamo fare il loro compito ai magistrati. Lei nel suo libro racconta di come questo signor Franco sia stata una figura molto presente nella vita di suo padre. L'ultima volta in cui lei ha avuto un contatto diretto con il signor Franco, qual è stata? Mi auguro che sia l'ultima volta. Stavamo nel marzo del 2006. Sono stato chiamato prima dal suo alter ego, da uno dei suoi alter ego, da questo famoso capitano di cui non posso né svelare altre identità o dare altre indicazioni. Era stato invitato a Roma. Ma lei la conosce l'identità di questo capitano? Io no, ma la magistratura credo di sì. Sono stato chiamato a Roma e l'ho incontrato esattamente nella zona dell'ambasciata americana presso la Santa Sede. Durante quella passeggiata lì lui mi dà quelle indicazioni di allontanarmi e di, magari se riesco, anche di rimanere in contatto con un penalista, perché da lì a poco si sarebbe dovuto verificare un grosso evento giudiziario che avrebbe potuto, queste le sue parole, dare un'accelerata a quella che era la posizione giuridica. Dovrebbe dirmi che nel periodo elettorale, dove dovevo stare fuori dall'Italia, e così ho fatto. Mi sono recato in Egitto con il mio avvocato penalista, aspettando l'evento, che poi è stato acclarato che era l'arresto di Provenzano. Il signor Franco, in un certo senso, l'aveva invitata a tenersi, diciamo, lontano dall'Italia nei giorni in cui catturavano Provenzano. Provenzano, ossia il signor Loverde, altra figura molto presente nella vita di suo padre e sua, altra figura che attraversa tutto il suo racconto che fa in Don Vito. Perché doveva star lontano dall'Italia il giorno in cui catturavano Provenzano? Al momento in cui viene fatta la perquisizione nella famosa montagna dei cavalli, dove si nasconde Provenzano, e vengono ritrovati questi due pizzini di Messina Denaro, e la conseguenza di questo ritrovamento che fa scattare il mandato di cattura, mentre che mi reco all'estero sempre tramite consiglio del signor Franco a portare tutti i documenti. Voi parlate di personaggio familiare, io direi personaggio ingombrante. Familiare nel senso di frequenza delle volte che le è capitato di vederlo. Anche perché aveva questo tipo di accesso privilegiato assieme a Loverde, che erano in pochi, come era stato col signor Loverde, laddove l'avevo riconosciuto in quell'identikit. Avevo anche nel tempo saputo capire cosa realmente raffigurava e cosa rappresentava questo signor Franco. No? Come la prima volta il barbiere chiede a mio padre la vera identità di Loverde, indicandogli la fotografia di epoca, nel momento in cui faccio altrettanto per il signor Franco, chiedendo, facendo riferimento a una pseudo rivista, se era ricollegabile quel soggetto, mio padre ebbe a dirmi quelle parole che mi ghiacciarono: ricordati che tanti pentiti hanno parlato del terzo livello inizialmente, ma poi si sono frenati, perché dice che non c'erano le condizioni politiche. Ricordati che il signor Franco è il quarto livello, per cui capite bene quelle che sono le mie riserve, quelle che sono anche le mie cautele nel procedere col lento lavoro che si fa con la magistratura nell'identificazione di questi personaggi, ma anche quelle che sono le mie paure. No? Sì, il suo contatto diretto, come ci ricordava, con il signor Franco è stato appunto 4 anni fa davanti a quella ambasciata, però lei ha ricondotto all'entourage, diciamo così, del signor Franco anche altre presenze che si sono fatte vive anche proprio sotto casa sua, con dei messaggi ben precisi: non parlare. Sì, più che altro il messaggio era, tanto per cambiare, anticipare quello che sarebbe successo, perché nel momento in cui nel maggio 2009 era stata disposta una tutela nei miei confronti, questo soggetto così spavaldamente viene a bussare a casa mia e mi invita a non andare avanti, che avrei scatenato una guerra mediatica che avrebbe soltanto giocato a screditarmi. Questo me lo dice nel maggio del 2009. Che succede? Nel giugno 2009 viene trovata quella famosa mezza lettera di Berlusconi dell'Utri. Sono stato giudicato da una serie di media come inattendibile, come mitomane. Quest'altra persona, lei l'aveva già vista, la conosceva già? Sì, la conoscevo già, era stata anche la stessa che mi era venuto, per modo di dire, tra virgolette, accudire nel periodo della mia detenzione domiciliare, dandomi giusti consigli. Era quello che mi aveva assicurato che quella famosa SIM, quella contenente i numeri del signor Franco, quel famoso foglio di carta dove erano indicate le redazioni politici per 1.300.000, quel famoso foglio di Berlusconi, mi aveva assicurato che non si sarebbe mai trovato, di stare tranquillo nel 2006. Così si è avverato. Precisi segnali mirati a farmi capire che il silenzio pagava. Lei ha fatto riferimento prima alla rivista. Come andò sia quello del barbiere, che riguarda Loverde, ma poi anche quello del signor Franco? Partiamo da quella del signor Franco. Vedevo come questo soggetto determinava tutto, era stato presente in quello che erano le stragi, era stato lì presente a consigliare, a dire a mio padre che non era il caso di fare questo libro che stavamo facendo. Che rivista era dove lei aveva visto questo viso del signor Franco? Questo tipo di indicazione non gliele posso dare. È un viso che rassomigliava molto, e difatti, come ho detto, la magistratura, mio padre stesso, si è meravigliato, per cui credo che bisogna andarci cauti. Ha detto: credo, ritengo che sia il signor Franco, anche se mi sembra difficile, perché non mi sembra tipo, disse proprio, scusatemi le parole, che si fa fottere da un fotografo normale, perché era uno molto attento a non passeggiare davanti ai bancomat, saprà tutte le telecamere, era uno molto preparato in quella che doveva essere, diciamo, la sua figura discreta. Un fatto invece più preciso e più circostanziato, che forse per lei rappresentò il momento in cui si rese conto anche di quali fossero le amicizie, i rapporti e anche il potere di suo padre su tutte e due le sponde, è un episodio che lei racconta all'inizio del suo libro, che è l'episodio del barbiere. Laddove al barbiere, lì dal signor Lopicco, il barbiere di fronte casa, io faccio vedere i identikit a mio padre del giornale Epoca, vedo come lui cambia cambia in volto, mi guarda negli occhi e mi dice: ricordati che da queste cose non ti posso salvare neanche io. Laddove avevo mostrato la figura dell'alias signor Loverde, Bernardo Provenzano mi pare cambia in volto, cambia espressione, usa delle parole durissime nei miei confronti. Storielle. Storiacce. Per lui inizialmente erano solo il signor Franco e il signor Loverde, così li aveva conosciuti e visti tante volte per casa con suo padre. Erano un misterioso uomo dei servizi segreti, messo accanto a Vito Ciancimino dal Viminale, come ha detto nella prima parte il figlio, e l'altro il capo dei capi di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano. Di entrambi Massimo Ciancimino capì la vera identità da alcuni giornali, come racconta nel suo libro Don Vito, e Don Vito il padre lo avvertì, da questi gli disse: non posso aiutarti nemmeno io. Credo che tutti gli incontri con mio padre Provenzano, almeno quelli in mia presenza, sono svolti mentre Provenzano era latitante. Ovviamente per la facilità e per la tranquillità con cui si muoveva, sicuramente non davano a pensare la figura di un latitante, ma latitante era latitante nel 1970, era latitante nel 2002, poco prima, qualche mese prima che muore mio padre, quando viene a trovarla a Roma. I rapporti sono interrotti laddove ovviamente un lungo periodo di carcerazione ha inibito mio padre in quello che lui, quelle sempre che erano le sue riflessioni, considerava una trappola tesa dai carabinieri, dai servizi e anche, diciamo, compiacenza del Provenzano, avevano fatto sì che mio padre era finito in carcere, viene scarcerato nel settembre del 99, laddove Provenzano viene subito a trovarlo, per cui per questi 7 anni i rapporti sono avvenuti per interposta persona, a livello epistolare o a livello pizzino. Provenzano è sempre stato colui con il quale suo padre aveva un canale più aperto. Lei racconta del ruolo che in un certo senso anche suo padre ebbe nella cattura di Rina. Lei racconta l'episodio delle mappe, ma suo padre era consapevole, sapeva del fatto che quel covo di Rina dopo la sua cattura non sarebbe mai stato perquisito? Erano le indicazioni che aveva dato lui stesso, era uno degli argomenti che aveva trattato ancora prima di buttare giù quella che doveva essere la collaborazione per arrestare Rina. Era uno dei punti fondamentali della consegna di Rina, era quello di non perquisire il covo, per cui nel momento in cui vede che alla fine quelli che erano tutti i suoi punti venivano rispettati pure nel non perquisire il covo, si rende conto, purtroppo queste sono le sue parole, che la vera trattativa inizia 19 giorni dopo l'arresto di Rina, perché lui dice sempre che di trattativa, se ce n'è stata soltanto una. Dopo aver arrestato prima Ciancimino e poi Rina, è iniziata la vera trattativa tra uomini e soggetti delle istituzioni. Questa era l'idea di mio padre, ovviamente. Tra i vari processi che si sono riaperti c'è anche quello che ha come punto centrale il famoso famigerato Papello. Lei ricostruisce il modo in cui, diciamo, le è anche passato di mano in una busta chiusa che suo padre le disse di appoggiare sul letto. Bisogna anche dire che ultimamente sono state depositate tutte quelle che sono le perizie in mezzo a tutto il materiale che io stesso, a differenza di quello che sono i pentiti, ho dovuto portare a supportare quelle che sono le mie dichiarazioni. Le perizie hanno dato riconoscimento a quello che è la tempistica, a quelli che sono gli scritti di mio padre, che tutte sono collocate nel tempo e nel giusto modo come io ho raccontato. La storia del Papello è più strana di quanto si possa pensare. Parlavo l'altra volta raccontando col mio coautore Alicata come, facendo l'osservazione, con questo Papello quasi godesse di un'immunità, di un lodo, perché è sempre stato lì. Quando è morto mio padre, nella stanza di mio padre, assieme ai pizzini, nella prima perquisizione mia era sempre lì, nella seconda, quasi una volontà a non toccarlo, è sfuggito a più controlli, dicevo appunto quasi era diventato un intoccabile. Tutti che cercavano questo Papello, in effetti a me viene aggiunto così, in una busta chiusa, in un momento in cui a Palermo, i primi luglio, c'era traffico, Sciname lo consegna dalla macchia dicendomi di farlo recapitare subito a mio padre, con la solita prudenza di non aprire mai quelle che erano le buste con all'interno quello che potevano essere missive per mio padre. Mi diceva le impronte digitali, non devi mai toccare niente, lui stesso usava guanti, faceva la fotocopia, aveva tutto un rituale per cercare il cambiamento di mio padre nell'84 era stato detenuto, per cui era uno schedato. Tutto questo rituale quasi assurdo, questi riti pagani quasi per poter poi conservare e trasmettere questa documentazione. Comunque una documentazione che laddove muore mio padre è sempre a disposizione, è nella mia cassaforte, è il frutto di quello che deve essere il libro, tutto il manoscritto assieme a tutti gli allegati. Stranamente sfugge a ogni tipo di controllo. Oggi leggo sui giornali che sono imputati, indagati alcuni carabinieri per questo tipo di atteggiamento superficiale nei miei confronti. Lei però ha più volte detto che tutto questo materiale a un certo punto l'ha portato all'estero. Sì, quando il signor Franco mi dice che sarò arrestato presto e che forse dovrò subire l'ennesima perquisizione, ero stato invitato a disfarmi del materiale, così ho fatto, visto che avevo capito che forse il reale tesoro che cercavo poteva non essere questo bagaglio di conoscenze, anche di materiale che custodivo, non era ben, non soltanto quello dei soldi. E lei riproduce molti appunti di suo padre nel suo libro, cioè la grafia precisa di Vito Ciancimino. E assolutamente sì. Come ci aveva già detto anche nell'altra intervista, era maniacale nel segnare e nel riportare tutto quanto succedesse nelle sue giornate. Questo materiale lei ora ce l'ha ancora parte all'estero o è tutto no, in Italia? No, guardi, tutto il materiale, il mio possesso è stato messo a disposizione della magistratura, levato ovviamente anche dopo averlo fatto visionare, quello che è strettamente personale e di ambito familiare. Tutto quello che può avere una valenza a livello processuale o dare qualche indicazione agli inquirenti è stato consegnato nella sua originalità. Lei parla di alcuni contatti, incontri di suo padre anche con Roberto Calvi e con Licio Gelli. Ci accennò a questa vicenda sì. Anche nell'ultima intervista che facemmo, circostanzia meglio il perché e il senso di questi contatti tra suo padre, il fondatore della loggia P2 e l'ex presidente del Banco Ambrosiano. Qual era questo scopo? E poi ancora le chiedo perché a un certo punto a suo padre fu suggerito di portare all'estero le sue ricchezze. Aveva lo spettro dei comunisti, come Gelli era stato sollecitato un incontro per quello che doveva essere un programma di un nuovo partito, perché credo che gli incontri, almeno quelli a cui ero presente, sono stati 2 o 3, per cui avevano solo questo scopo. Non credo che c'erano rapporti tra il Gelli piduista e mio padre. Mio padre ha avuto sempre era un più che altro molto... invece un canale verso lo IOR, era anche era un lì. Canale sì, verso lo IOR, ma non bisogna essere anche un po' distaccati da quelle che sono le sigle. Mio padre non cercava né IOR né, mio padre cercava sicurezza bancaria e disponibilità. Mio padre aveva bisogno di spostamenti in contanti, di spostamenti non riconducibili, di luoghi sicuri dove fare le proprie compensazioni di denaro. Così ho raccontato nella precedente intervista a lei, così ho raccontato nel libro. E lei racconta nel libro anche degli investimenti in Canada. Non fu proprio il signor Franco a invitare, a suggerire a suo padre quella strada? No, furono ambienti. Non proprio il signor Franco, ma furono ambienti vicini al signor Franco, ambienti vicini a quelli che era la classe dirigente di CD allora, che indicarono nel fatto che da lì a poco, negli anni 70, esattamente nel 76, dovevano celebrarsi le Olimpiadi in Canada e c'erano grandi agevolazioni per investimenti provenienti dall'estero sull'acquisto di immobili. Prese l'occasione di poter investire in questi building, in questi palazzi in Canada, ottenendo dei prestiti, anche delle agevolazioni fiscali dovute dalla avvenimento delle Olimpiadi, per cui diversificò sia nel Canada sia nella zona attorno a Milano, nelle speculazioni edilizie attorno a Milano. 2 episodi, storie di incontri tra padrini come quelli avvenuti in un pranzo e storie di incontri che portarono ad esempio a stabilire dove dovesse sorgere l'aeroporto Punta Raisi di Palermo. Porticello, una località balneare vicino a Palermo. Sì. In un ristorante, per la prima volta invece vedo raffigurato quella che è un po' la mafia del padrino, la mafia cinematografica, laddove durante un pranzo a Porticello veniva chiuso questo ristorante e lì iniziava questa lenta processione di tutti questi personaggi che chiedevano favori e dove si vedeva una mafia, a differenza di una politica, molto più efficace, molto più diretta e molto più a contatto con quella che è la popolazione locale. Lì ti rendevi conto come Cosa Nostra poteva crescere e poteva beneficiare di questo consenso sociale. L'altro episodio della costruzione dell'aeroporto. Mi ricordo bene quella costruzione, ma la cosa che mi è rimasta più impressa è quando ho convinto mio padre, nonostante le sue diffidenze verso quella cinematografia come la piovra, sicuramente lui soffriva questa tipa di rappresentazione. Convinco mio padre a vedere con me questo film, i 100 passi Mio padre lì mi conferma tutto quello che hanno vissuto, perché è lì che mi dice: ti ricordi la riunione, ti ricordi quello che è successo, e lì mi va spiegando realmente quello che è successo poi a Peppino Impastato. Mi ha confermato tutto a mio padre, che Impastato era stato ammazzato perché si era messo di traverso e in interessi di Badalamenti. Ha letto, no, di tutte le varie notizie sulle novità dell'inchiesta sulla Daura? A volte dentro di me c'è questa amarezza, posso essere stato un elemento che ha dato spunto a quelle che sono tante inchieste nuove. Oggi tutti parlano di cointeressi, di servizi, senza nessuno di questi soggetti che mi dà il riconoscimento di anche grazie a lui. Finché ancora oggi dobbiamo discutere su perché Ciancimino parla, siamo ancora ben lontani di quelli che sono i veri passi, la lotta all'omertà siciliana. Ma lei non ha paura? Ho paura, come sono adesso mentre faccio l'intervista, non sotto tutta la tutela, non posso vivere la vita normale. Non vorrei mi confronti mio figlio che mi fa superare tutto, devo tutto questo a lui, per cui vado avanti sicuramente. Ho fiducia nei magistrati, ho trovato le persone che hanno saputo ascoltarmi, credo che anche per quello sforzo che hanno fatto iniziale che devo continuare. Potete riascoltare questa come tutte le altre puntate di Storiacce sul sito radio24.it, dove troverete anche l'altra intervista a Massimo Ciancimino, come le altre interviste dedicate al tema della mafia e ai rapporti con i servizi segreti. Ciao, a sabato!